nena di vent'anni, venne a fare di Guillaume, Guillaume, ho messo in un tuo di fine per la stile Sansone. Poi raspondio, che farà io? C'è un mare rosso, un po' di calcio al sole, calcio al sole. Io sono una bella lama, però, quindi fatto quando hai di sento che io sia bene, però, e vuole morire, che vuole un po' di piccolo, vuole un po' di piccolo, pare che un passare il sertone sta salvaire, salvaire in una gesta e carità e tu razzi che può fare poi la spondio che farai io dopo le volte passare mi ricarai, mi ricarai. Era fuori con tapperello e pega il cavallo già con giorno e mai a forse che fate con l'omene smario, mario se la mai redenzio un fiero che già la lottaria poi la scondio che farai io c'è un marino scondio un po' di calcio il sole